un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Conosci questa sigla, Parenzo? Ma francamente no. È perché tu non guardi Il processo del lunedì di Biscardi? Ah no, grande Biscardi, massimo rispetto per Biscardi, ottimo Biscardi. Non poteva mancare Berlusconi da Biscardi. Anche là. Eh sì, eh sì. Ieri sera scatenato su mille fronti è intervenuto da Biscardi. Abbiamo con noi, abbiamo il piacere e l'onore di avere il Presidente del Consiglio, ma per noi il presidente del Milan, Silvio Berlusconi. Presidente, ci sei? Ciao Aldo, ciao, un abbraccio forte. Allora, questo Milan in testa alla classifica, con Pato che è grandioso, come lo giudichi? Bene, il Milan ha, credo, dato... Perché vada Biscardi? Da te perché... Allora, io ti voglio fare l'ultima domanda, poi ci sono tanti ospiti, i giornalisti. Ma io ho anch'io tanti, ho 150 ospiti all'Università della Libertà che mi aspettano e sono in ritardo. Allora, 5 minuti. Mi sono impegnato con te, non ricordando sì. Che aveva questa cena dove devo andare a fare tra l'altro un importante discorso. E sai perché l'ho fatto, Aldo? Lasciamelo dire. Sì. Perché ormai mi hanno condannato a farmi processare tutti i lunedì. Questo è il classico. Come potevo sottrarmi al processo del lunedì del mio amico Aldo Biscardi? Vecchi amici, supereremo il secolo di vita. Fantastico. Presidente, grazie. Aldo, un abbraccio affettuoso. Grazie. E noi ci conosciamo da più dei 25 anni, esatto, che io sono al Milan. Esatto. Quindi la nostra è un'amicizia antica che continuerà, perché sono sicuro che tutte e due supereremo il secolo di vita. Lasciami dire che questo è un processo diverso, questo è il processo di sport. Di sport hai parlato e ti ringrazio. Grazie. Ciao Aldo, un abbraccio. Beh, non so se Biscardi abbia fatto gesti scaramantici quando Berlusconi ha detto supereremo insieme il secolo di vita. Berlusconi ha questa fissazione naturalmente di superare i 100 anni, come sai, no? Comunque dovresti sapere di Biscardi che è su 7 gold, caro Parenzo. Non ho mai, la cicletta non la ricordavo, grandissimo Biscardi. Bene. Allora, la manifestazione ottima di ieri... Ottima marchetta a 7 gold, bravo. Beh, no, veramente non era per questo che ho messo in onda Biscardi, immagino, comunque, insomma. Immagino. La manifestazione di ieri di Berlusconi, di cui sapete, oggi si discute alla Camera in un clima rovente con i parlamentari del PD che a turno leggono articoli della Costituzione sul processo breve. La manifestazione... Io lì sto andando per te. La manifestazione di ieri viene definita da Antonio Di Pietro eversiva. Sentite. In un paese normale, dove un presidente del Consiglio organizza una manifestazione contro i magistrati che lo stanno giudicando, nello stesso tribunale in cui ciò avviene, a me pare che sia un atto eversivo che ha bisogno dell'intervento del Parlamento, del Presidente della Repubblica, ma soprattutto del popolo italiano, che ricorda a questo signore che non può usare la funzione per fini diversi da quel che gli è stato dato, quindi non lo può usare. Da quando sono vietate le manifestazioni davanti al tribunale? Da quando è vietato a un uomo politico, chiunque esso sia, di fare una manifestazione dopo essere andato in un processo? Ognuno fa quello che vuole, poi naturalmente si possono giudicare gli atti. Tra l'altro, questo è il mio commento, poi ognuno può commentare i gesti, ma non il fatto che una manifestazione fuori dal tribunale sia una manifestazione eversiva. Questa è evidentemente una stupidaggine. Detto questo... c'è un comunicato abbastanza curioso di ieri del presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro, e del vicario della Corte d'Appello, che si chiama Giuseppe Tarantola, i quali scrivono: la situazione di manifestazione esterna al Palazzo di Giustizia è per tutti noi fastidiosa e costituisce obiettivo intralcio alla normale attività giudiziaria. Cioè, la manifestazione di ieri davanti al Tribunale di Milano è fastidiosa e costituisce intralcio. Intendiamo protestare con le autorità competenti al fine di evitare il disagio per coloro che quotidianamente frequentano il Palazzo di Giustizia. E ovviamente per assicurare la dovuta dignità a coloro i quali amministrano la giustizia a Milano. Ecco, siccome nel 92-93, in quel biennio famoso, ci sono state tantissime manifestazioni e non risultano proteste da parte dell'allora presidente del tribunale contro le manifestazioni, si ha il sospetto che alcune manifestazioni davanti al tribunale, magari di sostegno ai magistrati, vanno bene, altre manifestazioni non vanno bene. Presentarvi un ospite che abbiamo qui collegato sul processo breve. Bisogna che però esponenti della maggioranza si mettano d'accordo prima di andare a parlare davanti alle telecamere. Per esempio, il sottosegretario agli interni Mantovano, che ha da poco ripreso il suo posto dopo dimissioni durate qualche giorno, dice in un lampo di onestà intellettuale, ma in realtà Mantovano è uno intellettualmente molto onesto, dice che la prescrizione breve è fatta a misura di Berlusconi. Non valgono, come è stato detto anche da qualche esponente della maggioranza, riferimenti all'Europa o altro. Questa è una scelta di necessità della politica o di una parte della politica a fronte di una forzatura giudiziaria grossa come una casa. È legittima difesa, lei dice in qualche modo. È legittima difesa, mettiamola su questo piano. Allora, tutti sappiamo qual è il punto di partenza. Il punto di partenza all'interno di un determinato processo, il processo Mills, è una interpretazione abnorme del termine di prescrizione. Io credo che sia onesto, dignitoso dire che la scelta del Parlamento è una scelta di necessità, è una risposta rispetto ad una forzatura. Insomma, la prescrizione breve fatta per Berlusconi. Il ministro Romano, invece, neo ministro Romano, dice è una norma che non avvantaggia nessuno. Non c'è nessuna possibilità che questa norma avvantaggi qualcuno in particolare, è una norma che serve a dare una risposta anche a ciò che ci viene detto dall'Unione Europea, ma qua siamo europeisti a convenienza. Noi riteniamo che in Italia i processi siano abbastanza lunghi. Non avvantaggia nessuno. Parenzo? Eccolo. Sai chi ti presento? No, chi c'è? Ieri c'era il presidente del Palermo, Zamparini e altri ospiti ancora. Oggi ti presento un ospite speciale. Sì, il presidente del CNR, vicepresidente del CNR per parlare dei gay e di altre cose. Ti presento un chi c'è di moderato? Un parroco, sì. Un protagonista che in realtà dal punto di vista mediatico è venuto alla ribalta anche qui alla Zanzara e che è stato protagonista di un'intervista alla Sette che ha fatto molto discutere. Senti prima. Politicamente è impossibile eliminarlo. C'è troppi soldi, non si può. E allora come facciamo? Non lo so. Forse io sono prete, prego il Padre Eterno che gli mando Benictus e rimanga lì secco. Chiuso il discorso. Don Giorgio De Capitani, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene. Comunque vuol sapere che il signor Parenzo mi ha invitato alla sua trasmissione domani sera, ho detto di no. Perché ha detto di no, signor Parenzo? Perché non accetto queste forme qui in cui ci sono questi falsi confronti, non si può parlare con lei, vabbè, per telefono è diverso, dico la mia. Beh, poi Don Giorgio, qui alla Zanzara lei è un po' di casa, diciamo la verità, insomma, Beh, insomma. Come insomma? Sì. Insomma, non è che... Se accetto vuol dire che mi trovo anche bene, no? Beh, certo, non c'è dubbio. Senta, adesso Parenzo purtroppo è in treno, come al solito, e la linea cade. Ma perché non accetta il confronto in una trasmissione televisiva? Ma lei li conosce bene questi confronti, no? Che confronti sono? Si sovrappongono i dialoghi, poi non si riesce a esprimere bene i propri concetti. E allora? E niente, preferisco le interviste, anche se poi c'è il rischio, come ha fatto la Sette, di tagliarmela, perché è durata un'ora, lei lo sa, è durata un'ora. Lo so, però sa, Don Giorgio, non è che possono mettere in onda un'ora di intervista. Ma però... Però lei quella frasetta l'ha detta, quella frasetta sull'ictus l'ha detta, dica la verità, lei spera, perché lo ha scritto anche Vittorio Feltri, ha detto quella cosa in un lampo di sincerità, lei vorrebbe che Berlusconi crepasse, diciamo la verità. Sì, ma scusi una roba, ma non è la prima volta che dico queste cose, perché ho scritto due settimane fa sul mio sito un articolo dal titolo "Datemi una pistola, un euro e sistemo il paese". Cioè, mi scusi, mi ripete un attimo questo concetto? Ho fatto un articolo, titolo sì. "Datemi una pistola, un euro e vi sistemo il paese". Cioè, lei sarebbe disposto a prendere una pistola, ricevere una pistola ed ammazzare Berlusconi? No, allora, mi spiego. un euro mi serviva per accendere la candela alla Madonna perché il colpo riuscisse bene. E la cosa più grave è quello di uccidere fisicamente Berlusconi. Beh, perché diventerebbe un martire, un simbolo. No, mi scusi, lei sta parlando sul serio? Come sul serio? Cioè lei, certo. lei ha in mente, cioè lei lo farebbe, ucciderebbe Berlusconi? No, ho detto che non bisogna farlo. Perché? Per evitare che diventa un martire, un simbolo. Solo per questo? Certo, anche perché poi naturalmente tutti i paesi avrebbero un monumento Berlusconi, naturalmente la statua dovrebbe essere nuda, no? Con il pene molto eretto, in modo tale che possa fare anche da portaombrello. Però dico, a un certo punto il rischio è questo, che diventi un simbolo, che diventi veramente, poi avremo in tutta Italia le immaginette, no? Le immaginette sacre per invocare chissà che cosa, quali grazie a Berlusconi. Questa è la mia idea. Lorenzo, stai sentendo? Eliminare Berlusconi. Aspetta un attimo, scusi, Don Giorgio, che ha detto bisogna eliminare Berlusconi? Allora, io a vantaggio degli atei, lo sì. dico proprio con una battuta, è che loro non credono, io credo in un Padre Eterno che può compiere un miracolo. E allora? Allora, che non rimanga lì secco subito, no, deve star lì 40 anni disteso su un letto in stato vegetativo a patire tutte le cose che ha fatto all'Italia, che ha distrutto l'Italia, ha distrutto la democrazia. Lei prima accennava lì ieri, ma ha sentito la frase che ha detto? Chi? Berlusconi? Berlusconi fuori dal processo? Sì, ne ho sentite tante. Ma questo qui è un criminale! No, che, qual è la frase? Qual è la frase, scusi, Don Giorgio? Ma no, come no? È un criminale. No, ma qual è la frase che lei ha sentito? Ha detto che i giudici lavorano contro il paese. Ah, che i giudici lavorano contro ma il paese. Ma scherziamo! Come si permette? Scusi, Don Giorgio, abbia pazienza. Scusi, Don Giorgio, guardi, io non sono molto credente, ma tante cazzate tutte insieme non le ho mai sentite. E meno male che non le ho mai sentite, almeno qualcuno ha il coraggio di potergliele dire in faccia. Perché non è... Svegliatevi, coglioni! Svegliatevi! Aspetti! Mi scusi, Don Giorgio. Io sono forse una delle persone più lontane da Berlusconi e dal berlusconismo, ma tante stronzate come quelle che ha detto lei non le ho mai sentite in 10 anni di lavoro. Sentire che qualcuno ha il coraggio di poterle dire. Scusi, Don Giorgio, scusi un attimo. Manda un'ambulanza subito. Lorenzo, non è venuto da te, Don Giorgio, perché non ama i confronti, i dibattiti televisivi, lo hai invitato domani. Lo so, domani. Ma certo che domani sera chi mi ha invitato? Che ne so chi l'ha invitato? Parenzo che sta parlando adesso. È lui, è Parenzo, sì. Ma allora perché a qualche giorno fa mi ha invitato? Come, scusa? Ha il coraggio di poterlo dire alla sua trasmissione? Non mi ha invitato forse? Sì, certo. Ma l'hai invitata non da solo, l'hai invitata a fare un confronto, non a fare un'omelia di odio, Che lei invita, lei mi ha invitato, non potrebbe lasciarlo parlare. E infatti sta parlando tranquillamente. Ma pensa un po', lei mi avrebbe incastrato domani sera? No, ma guardi che non voleva incastrarla, scusi. No, Don Giorgio, aspetti un attimo, allora, traffico, torniamo subito, 800-24-00-24, in diretta con il parroco di Monte di Rovagnate, provincia di Lecco, Don Giorgio De Capitani. L'ambulanza va... Che mostro sei? Tu pietà non hai. Siamo qui. Che fai? Canti, Parenzo, che fai? Canti. Ambulanza va. Però stai calmo, perché dobbiamo lasciar parlare Don Giorgio De Capitani. Meno male, mi avete invitato anche per quello. Perché non lasciar parlare me. E infatti lei sta parlando tranquillamente. Allora, io voglio spiegare solo questo: che l'avevo invitato alla mia trasmissione per sottoporsi a un confronto, perché io sono per la circolazione del. Dopodiché mi permetto di dire che se uno usa questi toni dice una sciocchezza. Dopodiché, va bene, ho capito. Allora, Don Giorgio, io però vorrei capire questa cosa che lei ci ha detto, che va oltre, allora, spero che Berlusconi abbia un ictus. Quello che io ho detto non va oltre anche una dottrina della Chiesa. Adesso nella dottrina della Chiesa, mi scusi Don Giorgio, nella dottrina della Chiesa non è che si invita a uccidere Berlusconi, no, abbia pazienza. Allora glielo dico. Ah, me lo dica, avanti. Ci sono teologi, sì, ho fatto una scoperta in questi giorni, sì. Ci sono teologi, ci sono, come si chiama, vescovi, e glielo dico uno, Giovanni, sì, di Salisbury. Che? 1900, scusi, che? Dice, 1200, certo, allora è molto più pericoloso parlare che non oggi, il quale ha sostenuto, basta andare a vedere su internet, che bisogna, non soltanto è una, come si chiama, lecito, ma è doveroso. Cosa? Uccidere il tiranno fisicamente. Ho capito, Don Giorgio. Chi è il tiranno? Ma certo, chi è il tiranno? Scusi, Don Giorgio, io questo qua, questi filosofi, più o meno qualche citazione l'ho letta, però come si applica questa cosa a Berlusconi? Mi lasci capire. Allora, cioè, siccome lei lo considera un tiranno, allora è lecito ucciderlo, giusto? Allora, o no? Il tiranno solitamente vediamo come colui che uccide fisicamente le persone, eccetera, eccetera, le fa fuori. Sì. Berlusconi ha fatto fuori la mente degli italiani, ha distrutto, sì, ha distrutto l'intelligenza degli italiani. Sì. Ecco, ha tagliato la testa, in poche parole. Sì. Ha tagliato la testa. Ecco, sì, cosa significa la pericolosità di questo veramente. Però torniamo, ho capito, lei lo considera pericolosissimo, ne ha dette di tutti i colori su Berlusconi, eccetera, eccetera. Però lei davvero lo ucciderebbe? Allora, ho detto di no perché c'è il rischio che... Oh, adesso mi fate dire che no, ma, voi. Ma solo per quello ha detto lei, solo perché poi... Certo, solo per quello! Cioè, non avrebbe nessuna remora di... Questo oggetto, perché non è neppure un essere umano, no, questo oggetto, vabbè, ostacola la democrazia in Italia. No, vabbè, ho capito, Don Giorgio, però abbia pazienza. Democrazia, perché compra tutto! Ho capito, Don Giorgio. Don Giorgio, d'accordo. Il nostro Parlamento è un insieme di mercenari. Però, comperati. Don Giorgio, lei è un prete, non può dire che è giusto uccidere. Don Giorgio, Don Euro. Don? Don Euro. Neuro. Don Neuro. Neuro Deliri. Don Euro, non Don Giorgio. Ma lei dice che è meglio che fa un programma che è una lattaccia, per piacere, che voi siete pagati da padroni. Ma quali padroni? Che siete dentro il sistema. Ma tacete, che voi non potete neanche far parlare uno quando vuoi il coraggio di poter dire la verità. Ma veramente in questa Italia. Ma veramente la stiamo facendo parlare, Don Giorgio? Abbia pazienza. Si vede. Come no, si vede. Abbia pazienza, non se la prenda, non se la prenda con me. Scusi, io la sto facendo parlare, voglio capire quello che dice, però, oltre sì, a parlare. Però non mi faccia dire le cose che non devo dire. No, lei ha detto, Don Giorgio, lei ha detto: io ucciderei Berlusconi, però c'è un problema, che poi diventa un martire, giusto? C'è questo rischio grossissimo. Ah, che beh, diventi un martire. Il rischio è quello, non che è un essere umano, no. Quale essere umano? Ah, non è nemmeno un essere umano, lo si può uccidere perché non è Ma nemmeno un. Io lo definisco un coso, non un essere umano, un mostro. Vabbè, ho capito, Don Giorgio, però abbia pazienza, lei si pone fuori dal consesso dell'umanità in questo modo. Ah, bello, bello questo. Quale umanità c'è in Italia? No, vabbè, ho capito. Chi ha rappresentato l'Italia da un essere umano che distrugge l'umanità? Ho capito, ma. Ma com'è l'umanità? Proprio lei deve dire queste cose a me. Che io difendo l'umanità, difendo un paese. Ho capito, ma non difendo mi pare. La democrazia di un paese, ma... la dignità di un paese. La dignità della donna. Parenzo, di qualcosa tu, Parenzo. No, ma io voglio dire a Don Euro che non deve aggravare la sua situazione. Mi dia il nome che vuole, altrimenti gli do un altro nome a lei. Va bene? Che fa? Che vuole fare, Don Giorgio? Scusi, gli dà una? Cosa? Ha detto, altrimenti gli do un. Ma chi? Una? Non ho capito, a Parenzo, altrimenti do un... Ho capito bene. Non no, niente. Niente. Ah, non ha detto niente. Si è calmato, improvvissamente si è calmato. Ma avete scoperto da Giorgio. Questo lì, quello lì è veramente uno che ha in mano una trasmissione. Ma una trasmissione televisiva? Ma lei veramente ha in mano una curia? Ma lei veramente ha in mano una curia? No, una curia. Che lei fa parte del sistema. No, una curia. Una parrocchia, sì. Svegliatevi! Scusi un attimo. La curia si converta. La curia dice qualcosa su quello che lei sostiene? Mi auguro. Don Giorgio. Si auguro per se stesso che è meglio. Vabbè, lasci perdere Parenzo, la curia allora si auguro. Cosa intromette dentro a fare quell'essere lì? Si intromette a fare. Sta sempre qui in trasmissione, sì, Don Giorgio. Allora fa parte del suo entourage. Il mio entourage, sì, non è che sia il figlio di Totò Riina, abbia pazienza, cioè non è Bernardo Provenzano, scusi se. Vabbè, comunque non facciamo questi confronti che è meglio, No, non facciamo questi confronti, non facciamo. Male. Senta, il ci dice delle cose gravissime. Mi dice tutelarlo. No, dice delle cose di una gravità assoluta. Se stesso. Scusi un attimo, Don Giorgio, prima della pubblicità vorrei che lei mi desse un giudizio. Io vedo qualche volta, vedevo quel che faceva quell'elemento lì. Chi? Parenzo, che faceva? Che faceva? Che faceva? Come conduce la trasmissione? Ah, lei. Come la conduce? Scusi, Don Giorgio, mi dà un giudizio lapidario, secco, sul fora di ball di Bossi? Bossi che dice agli immigrati fora di ball. Allora, io ho detto questa frase, Berlusconi perché fora di ball, che cosa vuol dire? Che differenza c'è secondo lei? Con chi? Non ho capito, con chi? Fora di ball di Berlusconi. Che differenza c'è? Cioè, quando lei dice fora... Le conseguenze di queste espressioni qua, fora di ball, quali sono? Che ne so, quali sono? Ah, come quali sono? Cioè, quella di mica vogliono uccidere gli immigrati. Ah no, ecco, qui si gioca molto sulle parole. Però un effetto negativo. Vabbè. Infatti si è visto. Sì, sì, certo. Si è visto, si è visto. Don Giorgio, c'è la pubblicità, torniamo tra un po'. 800 24 00 24. Parenzo, tieniti forte, eh. Torniamo. Sei arrivato a Roma finalmente? Mamma mia, sì, arrivato, tutto bene. Bene. Tutto bene, ma sconvolto, sconvolto. Sconvolto da chi, scusa? Da queste dichiarazioni di Don Euro. Don Giorgio De Capitani si chiama, non Don Euro, Don Giorgio De Capitani. Non può un uomo di chiesa dire, io figurati, cioè Berlusconi, ossia, sai che l'ho criticato politicamente, ma delle cose così non si possono sentire, dai, su. Effettivamente sarebbe un po' da... Dov'è? Dov'è adesso? Non lo so, dov'è? Dov'è? Don Giorgio? Oh, sono qui. Eccolo. Eccolo. Questa voce tranquilla, dice delle robe terribili. Sono qui, sono qui, sono qui. Vabbè, ho capito, che deve dire? È qui? Gli ho chiesto se è qui o no. Ma no, ma dica che si è sbagliato, lo dico per lui, per la sua tutela. Ma no, sua è convinto che è giusto uccidere Berlusconi, se non fosse che poi potrebbe diventare un martire. Così ha detto, che devo fare? Lo dobbiamo... No, tu non devi far niente, tu niente. Ma lui non può dire delle cose simili, un uomo di chiesa per giù. Nessuno dovrebbe... Don Giorgio, persona... da Monte di Rovagnate, provincia di Lecco, parroco, molti ascoltatori dicono che lei non è degno di indossare la tonaca. Hanno ragione, il nostro presidente di essere presidente, questo è bello. Ho capito, ma quello è un giudizio politico. Il signor Berlusconi, lo chiamo signore. Sì. Il signor Berlusconi di essere presidente del Consiglio, lui è degno. Ma scherziamo! Ho capito, Don Giorgio, quello è un altro discorso, però lei non, altro discorso? Lei non si può, ma lei non si può augurare la morte delle persone. Ho detto che quando c'è di mezzo il bene di un paese, uno va sacrificato. Chiaro? Che poi, non ho detto fisicamente, per il rischio, l'ho detto in un'altra maniera. Io la grazia di poter credere in qualcuno che magari qualche miracolo posso fare. In che modo, scusi? Mandando un bel ictus, no? Quello l'ha già detto. No, lei è in una condizione molto grave. Lei è in una condizione molto pericolosa, molto grave. Io voglio chiedere a Lecco qualche cosa. Chiedere a Lecco? Chiedere al sindaco di Lecco di praticare immediatamente un TSO, trattamento sanitario obbligatorio, immediato. Ma per Lecco? Ma per lui, a tutela sua, Don Euro, a tutela sua, sua! E della sua tonaca che indossa, tutela sua! Senta, lei faccia i talk show ridicoli e comici che sa fare lei. Fermi un attimo, fermi un attimo. Ridicoli, lei si deve vergognare di quello che ha detto, capito? Lei non si vergogna di quello che ha detto, Don Giorgio? Come? Lei non si vergogna di quello che ha detto su Berlusconi? Della morte, dico, giudizi politici. Ma scherziamo. Appunto, no, è una domanda. Ma scherza lei, non noi, non siamo matti. Allora, fermi tutti, voglio far annunciare il TG3 dalla nostra abituale annunciatrice ormai da qualche giorno, cioè dire Maristel Polanco. Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Braccio di ferro alla Camera sulla prescrizione breve, Alfano nessun effetto sui processi di maggiore allarme sociale. L'opposizione in aula rilegge tutti gli articoli della Costituzione, scontro politico, quali effetti sul voto, il sondaggio del TG3. Dopo lo strappo di Meloni il governo tenta la pace con Bruxelles, follia uscire dall'Europa, Bossi però insiste, immigrati a casa. Per la Procura di Milano il 1 ottobre dell'anno scorso non ci fu alcun attentato al direttore Belpietro, chiesta l'archiviazione. A Fukushima allarme nucleare a livello 7 come a Chernobyl, reattori fuori controllo, ma il premier Naoto Kan dice la situazione si stabilizza. Un operaio è morto, altri due intossicati alla raffineria Saras in Sardegna, nello stesso impianto due anni fa persero la vita tre lavoratori. I libri di storia gettano fango su Berlusconi, crociata PDL contro i testi scolastici, Gabriella Carlucci chiede una commissione d'inchiesta. Circo! Circo! Nani domatori, mangia fuoco e ballerine, fanno parte della vecchia tradizione. Adesso un nuovo circo che ha per sede il Parlamento, presidente. Bene, dopo Daniela Santanchè, anche Francesco Storace, leader della destra, collega il caso Ruby al caso Iara, caro Parenzo. Tu mi dirai cosa c'entrano le due cose? Secondo qualcuno evidentemente sì. Storace di solito non si fa prendere in castagna da queste cose, da queste stupidaggini, no? È anche abbastanza battagliero, combatte come un leone, lotta. Però Iara è un caso irrisolto. Beh, ma che c'è? Sarà anche irrisolto come è irrisolto, ma cosa c'entra con la vicenda Ruby? Io stamattina leggevo tra le tante notizie che sui telegiornali, sulle TV, non leggeremo mai, che ancora si deve celebrare, a proposito di minorenni, il funerale di Chiara, la ragazza di Bergamo. Magari mi sarebbe piaciuto più vedere un'indagine serrata su quel delitto, aver potuto pregare al funerale per questa ragazza. Invece sono tutti impegnati su Ruby, su tutte queste cose che per carità riempiono le pagine dei giornali, però poi alla fine vedremo quando questo processo finirà. Che cosa avrà prodotto? Storace. Casellati, sottosegretario alla giustizia. Berlusconi dona tanto, è uno che dona un sacco di cose. Berlusconi è sempre stato persona, adesso questo caso è un caso che è emerso perché è emerso dalla cronaca, che ha sempre regalato tanti denari a tante persone, che ha fatto tanta beneficenza. Ma perché sono diverse le due cose? Sono no, legate alla stessa persona? Certo persone. Che sono legate, ma fanno parte di due episodi diversi, cioè non è che il fatto di aver dato il denari a questa ragazza sia collegato poi alla telefonata. La telefonata era quella di dire è la nipote di Mubarak. Va bene. Casellati versus Travaglio, scontro ieri sera a 8:30, Parenzo, picchi di ascolto, pare, picchi di ascolto, sì. Casellati versus Travaglio, sentiamo. Bisogna usare anche un linguaggio educato. Io la inviterei a usare un linguaggio educato. Ma io uso il linguaggio educato. Che mi pare e lei usa quello che pare lei, a lei. No, quando lei usa un linguaggio educato per le persone che non ci sono con lei, non interloquiscono. Lei ha il dovere di usare un linguaggio educato. E dove non vuole è educato? Trombettisti della mela. Lasciamo finire Travaglio e ognuno qui vuole è che racconti di... le barzellette del Presidente del Consiglio per usare un linguaggio educato? E questo perché a un certo punto Travaglio se n'era uscito con una considerazione su qualche esponente sul Presidente del Consiglio, come al solito, e la Casellati ha detto... E insomma, non lo ha invitato a non essere maleducato in assenza delle persone non presenti. Vuole che le racconti una barzelletta del Presidente del Consiglio? Se l'è magnata con una battuta... Però sentiamo la Casellati come risponde. Guardi nelle per continui. E quello è il linguaggio educato che piace a lei? Ma, quando vi racconta le barzellette e voi ridete? È quello il linguaggio che piace a lei? Io il linguaggio che piace a me è il linguaggio di una persona che si rivolge ad un'altra in maniera educata. Il fatto di raccontare barzellette non è una cosa assolutamente maleducata, o lei vorrebbe farla passare per questo? Non capisco. Beh, insomma, ci sono barzellette e barzellette, naturalmente. No. Non tutte le barzellette sono uguali, cara Casellati. Mela, ad esempio, la mela, girala, la mela, insomma. Non era proprio finissima. Comunque, secondo la Casellati, le barzellette di Berlusconi non sono maleducate. Anzi, le barzellette in generale, ha detto lei. Ma forse si riferiva a quelle di Berlusconi. E poi a un certo punto Travaglio tira fuori la figlia che è assunta al Ministero. Sentiamo. Se vogliamo parlare delle nostre biografie, possiamo fare una bellissima trasmissione nella quale lei potrà raccontare come abbia fatto assumere a spese del popolo italiano sua figlia. Quindi possiamo fare tante lei, cose. Io non sono qui per parlare. Lei ha subito l'abitudine ad insultare, perché mia figlia non è stata assunta. Io non da sono me, qui si per è licenziata. Parlare, né di me né di mia lei. Figlia si è licenziata da un lavoro a tempo indeterminato, come è a Publitalia, si è licenziata per lavorare un anno con me, per darmi una mano, per ma un dove? Rapporto fiduciario lavoro... al ministero. Il capo segreteria è un rapporto fiduciario. Ha lavorato per fiduciario. Un anno con lei al ministero. No, per no, ma rimettendoci Travaglio. Anche economicamente. Sì, allora lei deve dire la verità agli italiani, Travaglio, visto che ci tiene tanto. Diciamo finire Travaglio. Ha capito. E destra. rimettendoci, non lo so, lo dice la Casellati, bisogna crederle. C'è stata anche una minaccia di querela della Casellati a Travaglio, non so chi, per questa vicenda della figlia che lavorava a Pubblica Italia. A un certo punto, per un anno, non so se ancora in corso questa collaborazione, è il capo di gabinetto della signora Casellati, il ministro della giustizia. Cosa sbagliatissima, secondo me, a prescindere, l'abbiamo detto più volte. È vero che è un rapporto fiduciario, ma se si può anche assumere un amico invece di una figlia o di un parente. Don Giorgio? Come va? Come deve andare? Di male in peggio sentire queste cose, no? Che vuole fare? È così, la politica è questa, ecco. Caro Don Giorgio. È come quella che ha assunto la Russa, no? Tale quale. Che ha assunto la Russa? No, ma adesso non è così. La Russa ha fatto un contratto di collaborazione ad una signora che è stata anche nostra ospite per motivi professionali. Una cantante, una presentatrice, eccetera. Ma scusi, ci sono anche tanti altri precari da assumere, senza assumere sempre queste persone. No, ma questa doveva presentare degli spettacoli della difesa. Di La Russa che ne pensa lei, signor De Capitani? Come? Don Giorgio, che ne pensa del signor La Russa? Cosa devo pensare? Che ne so, me lo dica lei. Cosa devo pensare? C'è niente da pensare, perché sono tutti ministri che veramente sono orrendi. Cosa devo orrendi? Fare? Praticamente io non giudico la persona. Cioè, non è che si augura la morte pure dei ministri di La Russa, no? Ma anche come persona non lo giudico. No, non lo giudico. Come non giudica tante altre come persona. Sto dicendo che magari non sono capace di svolgere politicamente loro. E come Maroni come persona è da rispettare. Ma va, è un burattino, non è capace di dice stronzate tutti i giorni. Ma è ministro dell'interni, signor. Ma gli sto dicendo, io non giudico la persona, voi capitemi, Ho capito. Sto dicendo che lui non è capace, è un inetto. Ma ho capito, Don Giorgio. È inetto. Don Giorgio, mi scusi un attimo, però sono curioso, siccome lei editorialista della Zanzara, Don Giorgio, il pane bianco de no altri. No, ma non è l'editorialista della Zanzara, è un ospite alla Zanzara, stasera dice la sua su un po' di cose. Non è che è editorialista. Ma ha preso un colpo di sole oggi, Don Giorgio, pesante, un colpo di sole pesante ha preso. Sì, certo che l'abbiamo invitata noi. Ma scusate una roba, quando invitate le persone dovete dare la possibilità di parlare, altrimenti perché... Ma scusi, Don Giorgio, lei sta parlando... sta parlando a voglia. Stiamo salvaguardando, siccome le ha sparate già grosse, io domani immagino già il titolo di Sallusti, la voglio proteggere. Ha capito o no che la voglio proteggere? Ma adesso, scusi, quando è capitato la storia dei militari, lei, signora, come si chiama? Signor Parenzo, sì. No, lei... Signor Cruciani, sì. Cruciani. Sì. Ha saputo le minacce... Certo, lei anche in quel caso non è che ci è andato leggero, Però allora, erano mercenari nel giorno in cui c'erano dei morti. Oggi scrivono le stesse cose sui giornali che ho detto io 2-3 anni fa. Ho capito, ma la curia che cosa dice di queste sue esternazioni su Berlusconi dell'ictus e oggi anche quelle sulla morte della pistola? Che diranno alla curia? Allora, lei si aspetta prima o poi che qualche provvedimento più pesante di quelli che hanno già preso, di qualche richiamo? Con il nuovo cardinale, dipende da chi viene qua, può darsi che magari... Chi è il nuovo cardinale, scusi? Eh? Chi è il nuovo cardinale? Chi lo sa? No, ho capito, perché lei dice fino adesso Tettamanzi Tettamanzi è andata bene? No, loro mi tengono freno sulle espressioni. Chi? Tettamanzi? Sul contenuto sono d'accordissimo, ripeto, sulle espressioni, perché dico anche parolacce. Cioè sul contenuto Tettamanzi è d'accordo con lei? No, il contenuto di questa affermazione non lo so, perché non ho avuto a che fare. Però dico, su tutto il resto, io dico, non ci sono problemi. Io dal punto di vista dottrinale sono a posto. No, ma ho capito, voglio capire, la curia cosa dice il signor Tettamanzi di lei? Ci ha parlato qualche volta? Io sì. Che cosa dice delle sue esternazioni? Ho detto di stare attento alle espressioni. Solo alle espressioni? Solo alle espressioni? Allora, 2 anni fa. E adesso non l'ha più sentito? Da 2 anni non l'ha più sentito? No, non l'ho più sentito anche perché, ripeto, ormai è in fase di trapasso, no? Intendo dire. Di trapasso è che stiamo cambiando. Di passaggio, no? Di passaggio, di passaggio. Con la speranza che chi viene qua, io ho la mia età, quindi non, io sparo a zero perché ho niente da perdere. Comunque, se posso dire ancora una cosa, sì, dica. Io quello che sto facendo non lo faccio per me. E per chi lo fa? Per i ragazzi, per i giovani, perché abbiano un futuro diverso da quel cazzo di un paese che abbiamo adesso. Calmo, Don Giorgio, lei è un prete! Lei è un prete! Lei è un prete! Devono trovare un paese diverso! Un futuro diverso! Lei è un prete! La borsa! Mandatemi la borsa! Bene, 19:36, 800 24 00 24, se ancora non siete schifati dopo l'intervento di Don Giorgio da Capitani, siamo qui ad accompagnarvi fino alle 21. Parenzo! Si è pentito? Si è pentito il prete? No, che pentito. Dov'è? Ma se è andato via, è andato via. Magari più tardi lo richiamiamo, la trasmissione è lunga. Non è che possiamo invitare solo Don Giorgio da Capitani, tutta la trasmissione. Stai per arrivare alla Camera dei Deputati o vicino al tuo luogo di residenza romano? Sia alla Camera dei Deputati, dove c'è una affollata presenza di macchine blu. Beh, è normale. Beh, assolutamente normale, la Camera dei Deputati. E poi? E poi c'è un convegno in corso qui al Capranichetta. Sì. Adesso proverò a intercettarti qualcuno, se vuoi. Vabbè, intanto facciamo parlare gli ascoltatori. Pietro da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Niente, sono rimasto un po' allibito del discorso delirante della donna. Sì. Perché comunque, cioè, se questo è l'educazione che riusciamo a dare ai figli, sì, cioè della violenza, è una cosa. Cioè, io sono cattolico, bisognerebbe anche forse la trasmissione tagliare forse queste cose, perché uno, magari andando poco in chiesa, sentendo Radio 24, dice: col cavolo che mando i miei figli all'oratorio. Beh, scusi, c'è anche da aggiungere, caro Pietro, che Don Giorgio da Capitani è parroco di un piccolo paesino del Bergamasco, no, che è Rovagnate, sì, o cose di questo tipo, certo, esattamente Monte di Rovagnate in provincia di Lecco, anzi non in provincia di Bergamo, in provincia, certo, di Lecco. Educare i figli. Non è che sia il parroco, non è che sia il parroco di una parrocchia, che ne so, importante di Roma, eccetera. Vabbè, eccetera. Comunque sia, non vorrei che i miei figli siano di quella parrocchia lì. Vabbè, d'accordo, questo lo dice. Insomma, se io credo che i credenti e i frequentatori della parrocchia di Monte di Rovagnate siano consapevoli di quello che dice Don Giorgio, il quale peraltro dice le stesse cose più o meno anche quando fa le prediche, non è che cambia registro. Devo insegnare ai figli, appunto, di essere critici e valutare tutte le situazioni della vita. Sì, Pietro, adesso se lei vuole fare la lezione a Don Giorgio su come dovrebbe fare il prete, per carità, la può anche fare, ma insomma, non credo che accetterà i suoi consigli. Li scriva, dica qualcosa, gli dica qualcosa. Mi sembra che rispetto comunque alla trasmissione, allora facciamo parlare tutti, solo perché forse lui era un donna. Ma è un personaggio che è tornato d'attualità. No, ma è stato intervistato perché è tornato d'attualità con quell'intervista alla 7. Oggi ha messo anche un carico da 90. Grazie, Roberto dalla provincia di Varese. Adesso non intervenite per dire perché avete chiamato Don Giorgio, le solite boiate. Cioè, non abbiamo chiamato Don Giorgio perché lo sapete, perché dice quello che dice. Roberto dalla provincia di Varese. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Niente, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Io la sento spesso sentire che dice fesseria o esagerazione nei confronti di chi si esprime, diciamo, con toni un po' drastici nei confronti del governo Berlusconi, a parte il parroco che è oggettivamente esagerato. Ma secondo lei non le sembra una fesseria, per esempio, quello che ha detto Mantovani, che il processo breve ce lo chiede l'Europa? L'Europa ci chiede di fare i processi, non le prescrizioni. E poi ha detto anche sui termini della prescrizione, quando lo stesso governo Berlusconi con la legge Cirielli ad averli tagliati. E non è una fesseria il fatto, o comunque una cosa schifosa, che questo paese in questo momento è governato da 320 persone che credono che Rubi sia la nipote di Mubarak? Cioè, queste cose vanno dette con forza, perché se non le dice voi giornalisti, se non le dicete, poi la gente come fa a farsi un'opinione? Queste sono, l'indignazione non è che deve necessariamente essere condivisa da tutti, caro Roberto. Per quello che riguarda il processo breve, io sono dell'idea che non bisogna fare questo provvedimento, probabilmente per motivi diversi dai suoi. Non so se lei si riferiva a Mantovani o a Mantovano, però il sottosegretario interno Mantovano ha detto esplicitamente che il processo breve viene fatto per Berlusconi. Io credo non è una cosa scandalosa? Non è una cosa scandalosa, è una risposta politica, la solita risposta politica ad una situazione di guerra, secondo il PDL, secondo la maggioranza. Lui si sente innocente. Sì, Roberto. Dice di essere sempre stato assolto. Sì. Le sentenze non le emette la Boccassini o Di Pasquale, visto che lui pensa di essere innocente, dice mentendo di essere sempre stato assolto, che vada a farsi giudicare. Sì, va bene. Vedremo d'accordo. Se. Però il punto è che c'è una sentenza di prescrizione dove si dice che lui ha corrotto Mills. Sì, non c'è una sentenza di prescrizione. E voi giornalisti non dite in modo chiaro che è uno scandalo, che abbiamo un presidente del consiglio che ha corrotto un testimone. Benissimo, abbiamo Roberto. Un presidente del consiglio proprietario di un'azienda in cui avvocati hanno corrotto sentenza definitiva giudice. Non è scandaloso. Vabbè, allora si scandalizzi lei per me, d'accordo? Si vuole scandalizzare lei per me? Oppure, si vuole scandalizzare del fatto che io non mi scandalizzo? O che comunque leggo queste cose? Poi si dice, quando si va alle elezioni, Berlusconi vince. Certo, si ascoltano Minzolini, Cruciani, Cruciani, oppure un telegiornale che fa un servizio contro un giudice perché ha un calzino di un determinato colore. Non è una cosa schifosa? No, tutto uno schifo. Tutta una cosa poi schifo. Le elezioni prendono una determinata piega perché la gente non è capace di farsi un'idea. È Minzolini che detta, che condiziona le elezioni. E forse anch'io un po'. Anche, certo, non c'è dubbio. Roberto, buona serata. Anche a lei, buona serata. Emilio da Milano, buonasera. Buonasera. Ho sentito prima di... C'è questo tipo di critiche, non mi fanno nemmeno entrare nello specifico proprio delle singole cose, perché sono le singole cose che si dovrebbero prendere in considerazione. L'ascoltatore mi invita a dire se è uno scandalo o no il processo breve. Io non ho ragione in termini di scandalo o non di scandalo. Dico che è un provvedimento sbagliato, anche se fosse vero quello che dice il ministro della giustizia Alfano, quello che ha detto pochi minuti fa, che è a rischio lo 0,2% dei processi. Perché è evidente che l'obiettivo è solo quello di bloccare un processo. E questo perché? Perché c'è in corso, secondo la maggioranza, una guerra quindicinale, ventennale tra Berlusconi e una parte della magistratura, e per vincere questa guerra si usano tutti i mezzi possibili. Parenzo? Sì, è già un passo in avanti il fatto che molti esponenti della maggioranza di governo dicano apertis verbis che stanno salvando Berlusconi. Politicamente è già un passo avanti, fino a qualche mese fa si diceva no, serve al paese, ora finalmente dicono a chi serve, è un passo avanti politicamente. Nino dalla provincia di Catania, poi gli ascoltatori vorrebbero che magari io o te ci scandalizzassimo e dicessimo è uno scandalo, una vergogna il processo detto, breve. Non ho detto che è uno scandalo, ho detto che è una porcheria fatta, cucita apposta. D'altra parte io ero a favore dello scudo salva alte cariche dello Stato, perché almeno non si facevano le porcate che stanno facendo adesso, cioè queste leggi che vanno a incidere su tutti i processi. Io almeno dico, secondo Alfano, lo 0,2%. Comunque, ma forse anche lo 0,1 o 0,001, comunque si sta facendo una cosa che incide in tutta la macchina della giustizia, su tutta la macchina della giustizia. Quindi... Emilio da Milano, allora. Sì, buonasera. Dica. Io ho sentito prima dire in trasmissione che Berlusconi ha organizzato una manifestazione davanti al Palazzo di Giustizia. Beh, il coordinatore del PDL in Lombardia un po' l'ha organizzata, insomma. No, niente di più falso, perché io come tanti altri eravamo lì per dimostrare il nostro affetto al Presidente, col cuore, non con rancore come fanno sempre, solamente per quello. Non c'è niente di organizzato. No, ma Emilio, io non dico che tutte le persone che sono andate davanti al Palazzo di Giustizia erano tutti quanti, come dire, militarizzati o organizzati c'è stata una macchina comunque organizzativa, dei pullman che sono arrivati dalle province della Lombardia, anche da Ravenna, ma questa è la gente che sceglie di andare. Sì, ma certo, Emilio, non è che vengono portati a forza, non è che vengono deportati, la gente va col cuore, questo che non volete capire. Sì, Emilio, la gente, ma a me non mi interessa perché la gente va, se va col cuore, se va col portafoglio. Ne prenda atto che la gente va col cuore, non col rancore. Ma lasci perdere, il rancore o il cuore non è interessante. Certo, sono manifestazioni violente, su questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio, perché non fa parte del nostro DNA. Ma quando si dicono le cose non vere, bisogna assumersi anche la responsabilità. Quando l'intervento del signor Di Pietro che dice che bisognerebbe citare Berlusconi per qui e per là, ma il Vaticano cosa dovrebbe fare con quel prete con cui ha parlato poco fa? Che tra l'altro. Beh, secondo me cacciarlo, scomunicarlo, però adesso non so quali siano le procedure. Va bene, Crociani. E che bisogna fare? Impiccarlo, scusi. Assolutamente, non si picca nessuno. Il punto era che voi chiamate questi personaggi in trasmissione e li trattenete a lungo, perché fate lo show con questi personaggi, e questo è vergognoso. Quindi È vergognoso, è vergognoso il fatto che noi facciamo parlare Don Giorgio perché ci importa solo fare uno show. Noi scusi, le sfugge una cosa molto semplice, caro Emilio. Primo, che non costringiamo nessuno a venire qui a parlare. Secondo, che questa è una trasmissione. Scusi, Emilio, questa qua non è una non è un simposio di intellettuali, la Zanzara, non è una riunione del concilio, un conciliabolo di filosofi. È una trasmissione radiofonica e la definizione di trasmissione radiofonica è anche quello di fare un po' di show. È evidente che faccio. Sì, mi faccia dire una cosa, sì. Per favore. Io sono anni che seguo la vostra trasmissione. Allora? Mi faccio finire. Ed era nata per dare voce al pubblico. Ma infatti lei sta parlando, cosa? Di che stiamo parlando? Quanto tempo della trasmissione è dedicato al pubblico? Ma si faccia gli affari suoi, Emilio! Ma che cosa le interessa? Lei parli e non si preoccupi di quante persone intervengono. Mi preoccupo sì, perché io lo so, l'ho capito. Ma cosa ha capito? Ho capito il vostro giochino. Chiamate quello, cioè, se uno parla male del governo, lo fate parlare a lungo. Lei si sbaglia, guardi, si sbaglia di grosso. Prenda i numeri di quanta gente ha parlato in trasmissione e di che argomentazioni e di che. Va bene, faccia questo calcolo lei, perché questo calcolo a me non interessa, francamente. No, è un calcolo talmente ridicolo che io. Non capisco che a lei non interessa, perché evidentemente evidenzierebbe una certa situazione. E quale sarebbe la situazione, dato che. Ma fa comodo così, va bene così. Vabbè. Continuate pure così. Continuiamo così, benissimo. Grazie. Per altri 15 anni, va bene lo stesso. Che cosa succede altri 15 anni? Continueremo a vincere le elezioni. Ma cosa c'entra le elezioni? Vincere le elezioni? Ma che me ne frega a me di chi vince le elezioni, Emilio? Ma scusi, ma lei e il suo compagno di merende non fate altro che offendere sempre il governo, i deputati e tutte queste cose qui. Va bene, offendiamo i deputati, adesso questa è nuova. Sì, Emilio, ascolti. Di Parenzo. Emilio, mi scusi, sì. Alle volte accusano questa trasmissione di essere troppo prona al centrodestra. Ma forse, forse questi sono infiltrati. Un attimo, che infiltrati, Emilio, stia calmo. Ma come parla? Altre volte accusano che è troppo di sinistra. Questa trasmissione è la Zanzara di Giuseppe Cruciani, che è un po' come andare al bar prima di tornare a casa. E quindi questa è, tant'è che lei l'ascolta, amico mio. Le do un abbraccio e un bacio sulla guancia, lungo e prolungato, e le auguro una buona serata. L'ambulanza va, mentre la città finalmente sa che mostro sei, tu pietà non hai. L'ambulanza va, vada dove va, meglio di una casa senza porte, di una lenta, lenta morte strega. Berlusconi che vada con 100.000 rubi e che vada con 200.000 prostitute non mi interessa niente. Mi interesserebbe che lui governasse l'Italia e a un certo momento facesse le cose che deve fare, e mi preoccupa perché non le sta facendo. Un presidente del Consiglio deve fare il presidente del Consiglio, se vuole fare barzellette, vada a fare il cabaret. La mia sterilità. Siamo di nuovo qui alla Zanzara, 19.50, 800 24 0024, andiamo a Prato, Stefano. Pronto? Sì, dica Stefano. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Mi dica. No, niente, stavo riflettendo sulle scempiaggini che ho stasera ascoltato dalla bocca di un prelato, come si dice. Io da cattolico non, diciamo, di quelli troppo, troppo assidui, sono veramente strabiliato da come uno possa paroccare l'istituzione della Chiesa, da come uno possa approfittare del pulpito di una chiesa per dire cose che neanche giustamente da una persona qualunque al bar può dire esattamente, ma cioè, questo veramente è un prete. È un prete, ma sì. Ma come fa? Ma cioè, ma voglio dire, io mi preoccuperei fossi un parroco della sua parrocchia. Cioè, ma il parroco della parrocchia è lui, lei dice un credente, un frequentatore della parrocchia. Un frequentatore, mi scusi. Sì. Beh, cioè, ma non tanto per i miei figli, mi preoccuperei per me stesso, perché cioè, conoscendo quello che esce da quella bocca, veramente io sarei molto preoccupato. Ma cioè, rimango veramente stupito da come da come un uomo di chiesa, perché lui si definisce uomo di chiesa. Mi piacerebbe capire e sapere dove ha preso i voti, perché non ho idea di che tipo di parroco possa essere questo personaggio, che il Don secondo me richiama più un fraseggio da mafioso siciliano. Cioè, beh, adesso cioè non ha le lei dice il modo di dire il linguaggio, dire, eccetera. Cioè, il linguaggio è quello di un mafioso, non certo di un parroco, mi scusi, Cruciani. Ma magari un mafioso no, però poi certamente no, quello mafioso, di un po' un gangster, sì, cioè un gangster, perché poi ha una voce. Gangster, bravo, no, una voce cioè, di un predicatore, di quei predicatori, sai. Che di uno sgarro, cioè, voglio dire, il parroco deve leggere il Vangelo, deve insegnare il Vangelo. Lui vuole ammazzare Berlusconi. Di far politica e di atteggiarsi a giustiziere, cioè se no qui siamo veramente alla fine del mondo, ecco. Grazie Stefano, andiamo a Padova, Gino. Sì, salve, buonasera. Niente, io ho sentito anch'io il parroco tornando a casa, poi mi sono perso una fetta di trasmissione dove ho colto solo di tanto in tanto un sacco di lamentele delle persone. Ecco, io vorrei accodarmi, però a questo punto rischio di essere ridondante. Mi pare solo che, così, per quanto riguarda la nostra emittente, che seguo quotidianamente con interesse, potrei fare un sacco di complimenti, diciamo che risulti sgradevole una caduta di stile far sentire una persona del genere. Scusa, ma io non è che sono responsabile delle cose che dice Don Giorgio De Capitani, abbia pazienza. Cioè, ha detto una cosa alla 7, nessuno ha detto nulla alla 7 per quell'intervista, adesso lei mi dice è sbagliato farlo ascoltare. Io lo chiamo perché tra l'altro l'ho sempre chiamato Don Giorgio, sì, per mille motivi che non sono tenuto, cioè, non sono tenuto a spiegare. È pericoloso, io approvo perfettamente quello che dice il suo compagno di trasmissione, Prinzo. Sì, ma guardi che lo penso anche io, la stessa cosa che dice Parenzo, dobbiamo giocare due ruoli diversi, altrimenti è ridicolo. Ma insomma, non c'è bisogno che spiego le parti in commedia che bisogna giocare, insomma, qui, altrimenti non è che possiamo giocare sempre allo scoperto su tutto. È talmente evidente la cosa. Non capisco dov'è il problema, scusi, perché non no, si... il problema è che è di cattivo gusto, capisce? Perché io non sono né di destra né di sinistra, o meglio, ho un approccio piuttosto... Ho capito, c'è un prete, c'è un prete, sarà di cattivo gusto e dire poco. C'è un parroco, un prete che lavora, insomma, che regge una parrocchia nel nord, in provincia di Lecco, il quale usa quel tipo di linguaggio lì. Non è la prima volta, lo ha ripetuto alla 7 l'altro giorno, qui è andato oltre questa sera dicendo io ammazzerei Berlusconi, sarebbe da uccidere perché i tiranni si uccidono, solo che non lo voglio uccidere perché altrimenti diventa vittima. Questo dice un prete. La curia di Milano, o non so chi, prenda provvedimenti, Parenzo, o no? Perfetto. È esattamente quello che penso. Adesso io spero che la curia prenda le distanze da questo passo, perché al di là dell'uccidere, ma la cosa più clamorosa, ad esempio, i 40 anni di letto, capisce, di paralisi, cioè quella è una follia, è un demenza. Beh sì, certo, perché non ha detto solo, auguro la morte. Capisce che sa che crepi, è una cosa che si può scappare, può stare. Beh, scappare, non esageriamo, insomma, è una follia, è una follia assurda pure quella. È una follia, però c'è una però dice, voglio che resti in stato vegetativo, questo ha detto. Esatto, capisce, c'è una premeditazione, una cattiveria, che è veramente di cattivo gusto, guardi, non glielo dice una verginella, capisce, uno che ascolta volentieri le provocazioni, però ho trovato veramente di cattivo gusto quel pezzo di trasmissione. Ma non è il pezzo di trasmissione, Carlo, ma non è il pezzo di trasmissione, di cattivo gusto quello che ha detto lui, non il pezzo di trasmissione, abbia pazienza. Gino, scusi, no Carlo? Sì, ha ragione. Sì. Se la prende come, non se la deve prendere con me. Cioè, io non è che mi aspetto che Don Giorgio usi un'espressione morbida nei confronti di Berlusconi. Certo, non è che sapevo che... Chiaro, che avrebbe chiaro. Detto cose di questo tipo, ma probabilmente l'avrei invitato lo stesso, per farmele ripetere, per sentirle dalla sua viva voce, per sentire qualche spiegazione. Tutto qui, a tra poco. Siamo siamo qui in diretta con la Zanzara 80024. Ciolitti. Gelatino da. Perciò fame, non posso vedere un reato per i gelati. No, però aspetta un attimo, aspetta un'oretta, no? Ti fai cercare. Mangia il gelatino, va bene. In collegamento dalla Camera dei Deputati, tra una votazione e l'altra, il leader di Forza del Sud, Gianfranco Miccichè. Buonasera. Eccoci, buonasera. Come sta? Eccolo. Avvilito, non c'è altro che votare. Si esce, si rientra, stiamo diventando tutti matti. Ecco, l'altro giorno lei ha fatto tipo Scilipoti, una sorta di corsa pazzesca per andare a votare. Cioè... Ma perché Scilipoti fa così? Eh? Scilipoti fa così. L'altro giorno c'è stata una foto che ha immortalato Scilipoti che di fretta prima di vedere Scilipoti che salta nelle poltroncine, mi chiedevo morire, perché Scilipoti è alto 1,40, la poltroncina non è 10, come fa a superarlo? Come fa a scoprire? Perché lei quello ha fatto? Eh? Lei quello ha fatto l'altro giorno? Io quello ho fatto. Senta, Miccichè, a proposito di Scilipoti, la domanda che facciamo a tutto: lei sa di essere alleato di Scilipoti, sì? Sì, ma lei vuole fatto l'elenco di tutti i parlamentari di cui io Scilipoti non lo conosco, quindi non so manco se uno bello, brutto, antipatico o simpatico, ma o come sia eticamente, perché sinceramente non lo conosco. No. Ma sa quanti ce ne sono persone brutte dentro un Parlamento? Una volta Berlusconi mi disse: guarda, se noi prendessimo una rete e la buttassimo in curva a San Siro, probabilmente miglioreremmo il livello della politica attuale che c'è in Parlamento. Per cui a lei, insomma, lei dice: tanto ci sono tanti deputati con cui magari posso anche non andare d'accordo. No, mi viene, come dire, non mi viene facile parlare, visto che io sono pure un deputato, un parlamentare, quindi dice: ma senti chi parla. Però non posso non ammettere che chi fa alla fine, insomma, tranne alcune persone che ne hanno la passione, che ne hanno la voglia, che studiano, che fanno qualche cosa che fa parte di un loro progetto, la maggior parte delle persone che vanno in politica adesso è perché forse è fallita nella vita. Ah, la maggior parte delle persone che fanno politica è perché... La maggior parte no, ma tanta, una buona parte. Tipo chi? Le persone che vanno in politica è perché hanno fallito nella vita. Quanti sono i medici? Perché non fanno i medici? Quanti sono gli avvocati? Perché non fanno l'avvocato? Magari ci sono anche altri motivi per cui fanno politica, no? Vabbè, lasciamo perdere... No, per carità, ho detto, tranne quella parte, che è certamente la parte buona, cioè quelli che lo fanno per passione, per servizio, perché ci credono, perché hanno un progetto, perché vogliono portare avanti un'idea, eccetera, e sono tanti. Ma c'è una buona parte, i quali lo fanno perché si guadagna, perché... Quindi non è che c'è da stupirsi di questo... E per esempio chi è che lo fa per... Ah, nomi non ne faccio. Nomi non se ne fanno. Nomi non un se ne siciliano, lo gli puoi chiedere a un siciliano. È una domanda, lui ha detto una cosa, io ho detto nomi non se ne fanno. E vabbè, allora non se ne vanno. Abbiamo scoperto col pentitismo che l'omertà non era un valore per quanto ne dico, però nomi non ne facciamo lo stesso. Però l'omertà resta comunque, in questo caso resta comunque un valore. Senta una cosa, ma oggi leggo da qualche agenzia che con la Russa avete avuto qualche contatto ravvicinato, no? Alla Buvette, mi sembra. Con il signor La Russa, lo conosce? Quello che fa politica? Sì, quello che fa poi. Ecco, La Russa quasi è uno tutti, che fa. Quasi tutti La Russa fanno politica, veramente. Quasi tutti La Russa fanno politica, sì, effettivamente è vero. No, Ignazio, sto dicendo Ignazio. Cioè... Oggi non ci siamo incontrati e ci incontriamo alla Camera, per quanto sia grande, è bellissimo. Sì. E per 600 deputati sempre piccolo, per forza. Ma lei è una di quelle persone che non vorrebbe incontrare? No, è una di quelle persone che non mi aggrada, l'ho detto più volte. Sì. È una delle persone che secondo me potrebbe andare bene per fare un'altra cosa, non per gestire un partito a cui sono iscritto. E che potrebbe fare? Che potrebbe fare, signor Miccichè? Già l'ha fatto fino a ieri, ha fatto benissimo, forse il suo mestiere di colonnello, no? Di Alleanza Nazionale. Sì. Da colonnella generale il passo è pesante. Per cui diciamo le sue caratteristiche sono quelle al massimo di essere un subordinato di qualcuno che ha più un ruolo più elevato, diciamo. No, ma ora a prescindere da questo, secondo me c'è stata ultimamente una così, un po' di confusione in tutto il PDL. Molta confusione, direi, molta confusione. Ha colpito un po' tutti. Senta, la Russia ha reagito diversamente da tanti altri, forse in maniera che a me non è piaciuta. Insomma, non è importante. Quello alla Camera, no? Ma sempre fascista resta, secondo la sua famosa intervista che ha detto al Corriere della Sera, La Russa? Mancherebbe altro. Cioè, sempre fascista è? Assolutamente. assolutamente. Che significa fascista, però? Trasportato al... Lo trasporto nel senso, nella sezione più negativa, cioè quella della violenza, dell'arroganza. Come metodo, ma per esempio con l'arroganza di La Russa nei suoi confronti, ci racconti un episodio, tanto per capire. Dice un arrogante, lo riferisce a un'esperienza personale che ha avuto, immagino, in generale. No, non si permetterebbe di essere arrogante con me, io lo vedo che è arrogante sempre. Sempre arrogante. Sì, no. Ed è il maggiore problema del PDL in questo momento, secondo lei? No. Lei non mi ha chiesto qual è il maggior problema. Qual è il maggior problema del PDL? Lei mi ha chiesto un'altra cosa. Aspetta, ho incontrato La Russa alla Buetta, che non è manco il maggior problema del PDL, quello di incontrare La Russa. Non c'è dubbio. Senta, ma in questo momento ci spieghi un po', lei che io non so se sia ancora iscritto al PDL, lei. Stanno uscendo, eh? Se lei mi trova uno iscritto al PDL, glielo pago 100.000 euro. Ah no, questo è interessante, scusi, non ho capito, non c'è nessuno iscritto al PDL? Non c'è mai iscritto nessuno al PDL. Come non si è mai iscritto nessuno? Qualcuno, forse recentemente, ha ragione, no, recentemente sì, si sono fatti i tesseramenti, è vero. Io non c'ero già più, però. Per cui lei non è mai stato... Finché c'ero io non ce n'era, no. No, l'altro giorno al Parlamento Europeo Albertini ci ha fatto vedere, io ho la tessera qui del PDL, evidentemente le davano prima, poi non hanno più date. No, che l'hanno cominciato a fare tardi, per cui finché io sono stato organico nel PDL, insomma io non sono mai stato iscritto. Esatto. Per cui lei, che comunque insomma conosce Berlusconi e Berlusconi resta sempre il suo punto di riferimento, no, politicamente? Assolutamente sì, lo considero sicuramente un uomo al di sopra di tantissimi altri, quasi tutti gli altri. Al di sopra di tutti. Senta, la sfangherà Berlusconi? Che fa? No, la sfanga in questa occasione, uso un termine così popolare, lo fa capire gli ascoltatori. Ce la fa? Popolare di quale popolo? No, un termine così. La sfanga in queste votazioni cruciali di questi giorni. Allora, immagino cosa significa, ma lei che lingua parla? Io parlo... Che dialetto è questo? È un dialetto, la sfanga, sfangarla, è un dialetto comprensibile a tutti. Ce la fa a superare i voti di questi giorni? Se lei lo dice in dialetto, se lei lo dice in siciliano, sfanga, pensava che è Spagna con un refuso tipografico. Come si dice in siciliano? Cioè... Ce la fa? Ce la fa o no? Ce la fa? Ce la fa o no? Ce la fa? Romano, però. Ce la fa blindandovi fino a notte fonda, in questo modo ce la fa, Siamo noi blindati. Lo so, appunto, blindando voi ma fino a notte fonda. Ma qui stanno uscendo tutti dalla casa. Perché c'è un'interruzione, poi tutti escono, tutti. Poi le votazioni riprenderanno. Senta, se dovesse dare lei... Dov'è questo che dice che escono tutti davanti? È Parenzo che sta... Sono qua davanti, dice che... Pensate, per colpa vostra faccio il cretino, perché per parlare con voi mi sono messo dietro, non esce nessuno, io sono ancora qua, mentre stanno uscendo tutti, vedete? Sì, stanno uscendo tutti, però aspetti un attimo, lei non esca, amici, se no poi non la becchiamo più. Senta una cosa, se dovesse dare un consiglio a Berlusconi di come risolvere questo problema che c'è evidentemente all'interno del PDL, che non si capisce più niente, ex AN contro quelli di Forza Italia, grande problema, Scaiola e tutto, che consiglio darebbe a Berlusconi? Allora, io intanto, evito di dare consigli in casa, nel senso che io ho partito e vado e lavoro per il mio. Quali sono i problemi degli altri partiti se li vedono loro? Se io sono uscito dal PDL, perché consideravo problemi, problemi difficilmente risolvibili. Cioè è finito, il PDL è finito? Il PDL la considera non è più un'esperienza finita? È la mia esperienza con il PDL, questo è però onestamente, se io sono al PDL è perché consideravo questi problemi irrisolvibili, quindi chiedere a me qual è la soluzione per risolverli. E che ne so, un coordinatore unico, un azzeramento totale? A chi lo devo chiedere? Mi parli di Forza del Sud. Forza del Sud, vedremo come sarà Forza del Sud. Per esempio la Carfagna aderirà? La Carfagna è una persona molto innamorata del Sud, sì. È una persona molto per bene, e quindi io, come dire, rifletterà, penso che rifletterà, so che riflette, poi... Riflette adesso, non è quanto ci deve mettere a riflettere? È da quasi una legislatura, è ministro del PDL per adesso. Dopo si vede, dopo è possibile. E dopo si vedrà. E la Presti Giacomo invece? La Presti Giacomo... rifletta, ma la Presti Giacomo non è in cantiere il lavoro di Presti Giacomo. No, non è in cantiere. No. Invece quello con la Carfagna ci si lavora intorno. La Carfagna ci lavoro perché è una persona che mi sembra realmente appassionata per il Sud. Siccome io ci credo realmente, sono veramente pazzo per il Sud. Sì. E quindi, mi piacciono quelli così e quindi ci vado appresso. Sento una cosa, ma a proposito sempre di PDL, per carità, non è che le voglio chiedere solo del PDL, però... esiste, cioè per Berlusconi cos'è il PDL? Un intralcio, un problema, non gliene frega niente, un... Lei mi dice, lo chiede a Berlusconi, però ho capito. No, è una maggioranza parlamentare. Cioè gli garanti del partito non gliene frega niente? No. Eh? Così come... C'ho Tremonti qui davanti a me che mi sta salutando, gli devo dire niente. No, gli dica se... No, gli dica. Ce lo passi, appena sentito la voce di Parenzo è scappato. Figuriamoci. No, aspetta Parenzo, te lo passo, aspetta. Grazie. Che dice? È Parenzo. Non ci credo. È il signor Parenzo, ministro. Non ci credo. Sì, come non no? Alzi, è lui. Non alzi l'IVA, ministro. No, che c'entra l'IVA? Scusa Parenzo, che c'entra l'IVA? Ministro. La prego, non alzi l'IVA e abbassi le tasse, ministro. Dov'è? Che dice? Perché dice che è una trasmissione seria, che dice minciate in continuazione. Che dice? Ma è ancora lì Tremonti? No, è uscito. Il ministro è ancora qui, è uscito. No, è accanto lì, ma che è un'imitazione? Allora vado via. No, ministro, ma scusi, no, ma ministro, è vero che si è offeso l'altra volta un po' perché c'era un suo imitatore qui a Radio 24? Ma lui ce ne ha moltissimi ed è sempre contento, questo lo rispondo io. Siamo sicuri, sì. Gli dà il voto ogni volta. Chi è il più bravo a imitarla, ministro? La Meloni è brava? Sacconi. Come Sacconi la imita? Sacconi. Sacconi è bravo. Baldelli è fantastico. No, Baldelli lo so, solo che ha un po' paura e non lo vuole fare in pubblico. Ma non lo vuole fare, saluti, davvero. Saluti a Parenzo da parte del ministro. Vabbè, se ti saluta Parenzo. Ministro, non ti auguri da parte del ministro. Chiamalo un po', Parenzo, tu che lo conosci. Ministro, dovete accontentare di me adesso. Salutatevi in diretta, saluti Parenzo. No, se n'è andato. È venuto, il ministro è venuto a presentare il suo libro da me, Il Cavallo Elettorale, La Paura e la Speranza. Vabbè. Posso farci imitare così ci credete? No, vabbè, pubblicità, torniamo tra un attimo, mi ci resti lì, eh? Eccoci qui 2015 800 24 00 24 con la voce del ministro Tremonti, la vera voce del ministro Tremonti alla Zanzara, grazie a questa come possiamo chiamarlo, Parenzo? Intermediazione. Sì, questa intermediazione, questo microfono aperto che ci ha messo Gianfranco Miccichè, che è anche sottosegretario alla Presidenza del Consiglio di Andrea Calcini. Ma ancora. Chi gira intorno a lei ancora, Miccichè? Ecco, perché se gira qualcun altro. Ora è venuta la sorpresa migliore. E qual è? Che è molto, molto più sorpresa di Tremonti. E qual è? Berlusconi, che mi cercava per darmi bastonate perché dice che avevo detto cose brutte su di lui, Scilipotti, che ora è qua. E allora, visto e considerato che voi mi avete chiesto, sì, mi vergogna a stare con Scilipotti. No, non abbiamo detto questo. Non l'ho detto questo, Miccichè. Ho detto lei è alleato di Scilipotti, punto. Non è che ho detto che si deve vergognare ad essere alleato di Scilipotti. Dove sei, Scili? Che dici, Parenzo? Sono qui fuori, Scili, qui davanti alla camera. Vieni. Che cosa dice? Sono qua fuori, Scilipotti, le offro un gelatino, venga, da Giolitti. Intanto buonasera, come state? State bene? Caro Scilipotti, come stai? Sempre... Mi sento con immenso piacere, ma la cravatta di Miccichè mi ha abbagliato questo colore. Cravatta arancione, credo, no? Porta i colori della nostra terra. Che quella un po' olistica, una cravatta un po' olistica, no? Stavo ascoltando Parenzo che diceva che fuori, non ho capito dove si trova. Da Giolitti, andate a prendere un gelatino insieme. Qua davanti, si trovassi sempre lungo il percorso Bologna-Roma all'interno del bagno sul treno, invece si trova in altri luoghi. No, si trova vicino, no, si trova esattamente a pochi metri. Davanti alla camera. Nel bagno del Bar Giolitti, ho capito. No, nel bagno del Bar Giolitti, al Bar Giolitti. Scusa. Vivi, come stai innanzitutto? Bene, Scili, tu? Ma potrei stare meglio. L'olismo, come va l'olismo? L'omeopatia? Tu dovresti sicuramente prendere qualche lezione per poter cominciare a riflettere abbondantemente che questo termine olismo dovrebbe essere utilizzato e applicato da molti parlamentari, non soltanto da qualcun altro. Questo suggerimento che io ti sto dando, e tu, se tu riesci a passarlo anche agli altri parlamentari, potrebbe essere una cosa utile, non tanto per te, è difficile per te comprendere questo linguaggio, ma potrebbe essere utile per i tuoi figli e i tuoi nipoti. Sa come diceva Fantozzi, no? Sulla corazzata Potemkin. Fantozzi, tu non sai che cos'è, tu Fantozzi l'hai visto, no, sono, ma sulla corazzata Potemkin qualche volta l'hai visto in televisione attraverso il piccolo e poi il grande schermo, ma Fantozzi lo fai tu giornalmente, perciò guarda, difficilmente. Scusi signor Scilipoti, però volevo chiederle una cosa, ma Pippo Franco sarà una nuova entrata del Movimento di Responsabilità Nazionale oppure partecipa semplicemente al suo convegno? No, Pippo Franco è venuto, noi abbiamo parlato un poco, ma abbiamo parlato di altri argomenti, non di politica, lui non si occupa di politica. Ti chiedo scusa, ma e qui c'è il sottosegretario che io devo lasciare la telefonata a lui. Sì, certo, subito, però una cosa, lei vota senza problemi, processo breve. Un abbraccione di cuore, ti sento sempre con immenso piacere, un abbraccio anche al tuo e al mio amico e al nostro amico Parenti. Lei lo vota il processo breve? Lo vota il processo breve o no? Ciao, pronto, no, sei andato, si riporta. Mi fate stappare, io vi porto tutti, voi li fate stappare, mi andremo. No. Lei deve sapere, lei deve sapere. Non ve lo passo, No, noi volevamo dire che lei deve sapere che tra Scilipoti e Parenzo c'è un contenzioso che ormai dura da una ventina di giorni. Quando ha tempo le mando sulla sua casella postale una specie di riassunto audio di quello che è successo tra Scilipoti e Parenzo, che oltre a essere uno spasso formidabile è anche istruttivo. Però abbiamo il traffico, poi torno, mi deve dare ancora 5 minuti perché le voglio chiedere di due persone. No, non glielo dico, sennò si prepara. No, ma che si prepara? Lei va a braccio, che gliene frega. Traffico. Siamo qui, sempre in diretta dal Parlamento con due persone, uno fuori dal Parlamento perché non c'entra nulla col Parlamento, che è David Parenzo, e un altro all'interno del Parlamento che è l'onorevole Gianfranco Miccichè, leader di Forza del Sud. Molto simpatico, devo dire, per la prima volta alla Zanzara, nonostante il fatto che una rubrica del suo sito, del sito personale, si chiama La Zanzara, hanno schifosamente copiato dai sotto... Schifosamente copiato voi, perché il mio sito esiste da sempre, ma questo non è importante. Da quando, scusi, da quando esiste il suo sito? Da quando esistete? No, noi da 5 anni ormai, Miccichè, a me non mi frega su questa cosa. Schifosamente copiato. No, ma sto scherzando, ma allora schifosamente no, copiato ma io. La Zanzara, no, tra l'altro il suo si chiama Le Zanzare, se non sbaglio, No, si chiama La Zanzara, perché sono Zan e Zara, due che discutono fra di loro. Zan e Zara, sì, effettivamente. Ogni tanto ci vado ed è divertente. Senta, amici, che oggi Alfano ha detto una cosa, no? Ogni giorno ne dice una, però, per cui dobbiamo essere troppe precisi. Ne dice, no? Troppe forse. No, bisogna essere precisi, però, che ha detto oggi? Che ha detto? Ha detto che alla fine con questo processo breve interessa solo lo 0,2% dei processi, insomma, mi pare un po', o no? Interessa solo? Lo 0,2%. Un po' forte questa, eh? Dico che i processi in Italia sono insopportabilmente lunghi. Quanto interessi, questo se interessa solo 0,2% non so perché si vende tutto questo casino, ma appunto dico, se interessasse solo ma lo dica lei che lei è una persona intelligente. Non posso essere certo di quello che voi mi dite, per cui come spesso non per sé non so manco quello che dico io, vediamo se posso essere questo 0,2% deve essere qualche cosa che diventa. Per cui lei mi dica la verità, lei è una persona intelligente, vota perché bisogna votare per salvare Berlusconi, diciamo la verità. Quando uno viene eletto in una maggioranza cambia maggioranza, non è il mio caso, io ho cambiato partito, ma non maggioranza, sì. Ci sono, come dire, delle, ma questo di tutti, per cui non mi vergogno a dirlo, così come se qualcuno dice che vota secondo coscienza, ci sono alcune cose che si votano secondo coscienza, tant'è che i gruppi lasciano di votare come si vuole, sì. Ma alcune battaglie che fa una maggioranza, si vota quello che dice la maggioranza, questo è poco ma sicuro, non esiste Parlamento al mondo dove avviene il contrario, per cui non mi vergogno a dirlo. Si devono vergognare quelli che non lo fanno. Scusi, Miccichè, ma però questa legge, lei dice, questa legge è una vergogna, però la voto per disciplina di partito. No, allora, non è così. Io non ho detto che è una vergogna, primo. Dovete No. Non le sto mettendo in bocca. Non ho detto che questa legge è una vergogna. Fa schifo, cioè la approva questa legge, le piace o no? No, scusi, io sto dicendo che c'è sicuramente un qualche cosa di incredibilmente anomalo in Italia, e cioè uno che fino al 1994 non aveva ricevuto neanche una multa a suo carico, da quando sta dicendo in politica, ha qualche cosa come 117 processi, non so quante, ha avuto 1700. Vabbè, quello che è. No, attenzione, no, quello che è. No, è quello che è, nel senso come numeri, perché, volevo dire, come numeri. I numeri non è importante, quello che è. Ma il problema vero è che comunque bisogna in qualche maniera frenare questo strapotere di personaggi. Che io non dico manco che fanno parte della categoria magistrato, perché se ne è la categoria magistrato, la categoria come dire. Però mi scusi però, un attimo. Meno serie, ma che sia anomalo il fatto che uno per governare debba passare l'80% del suo tempo a difendersi da una casta vera, perché poi a Gian Antonio Stella e gli altri che scrivono la casta, bisognerebbe un giorno spiegargli qual è la casta vera. Che qualcuno farà, ha scritto anche sulla casta dei magistrati? Immaginabili, che bravi o scarsi che siano, vanno avanti fino al massimo della carriera sempre comunque, che non si può toccarli, che gli unici amministratori pubblici che se sbagliano non fanno, e quindi tutta la vera casta che decide di non fare governare una persona. Comunque è una Però mi scusi, questo qua l'ho capito, però torniamo un attimo alla questione della legge. Lei dice No, ma non nel dettaglio, io sto dicendo una cosa. Dunque, non nel dettaglio, io quello che so è che si sta facendo, e quindi lo stanno facendo facendo di tutto per respingere politicamente in qualche maniera una casta di poche persone che avendo un potere illimitato hanno deciso che Berlusconi. Ho capito, dunque questo qua è un atto politico. Assolutamente sì. Sì, dunque non ha niente a che fare con la giustizia, col processo. No, si dica forse, ha a che fare con la giustizia, proprio perché si fanno tutto è un atto politico. E quando si fa una legge è un atto politico, viene trovato contrario. No, ho capito, però lei si parla di giustizia. Ma un provvedimento sul processo breve per accorciare i termini delle cose. Invece in questo caso lei pensa che non sia un atto politico? No, però mi scusi, amici, che l'obiettivo, me lo dica, l'hanno detto anche altri esponenti, non è una persona intelligente. L'obiettivo è salvare Berlusconi, sì o no? Non fa rifugio, non mi freghi. Il problema è politico, bisogna fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per evitare che ci sia qualcuno in Italia che non ha nessun interesse a un risultato elettorale, perché vuole che il governo ti dice. Ho capito. È un fatto che non può succedere, quindi non è che parliamo del processo breve, stiamo parlando di tutto. Ecco, appunto, qualsiasi provvedimento purché vengano fermati i magistrati, giusto? Non fermati i magistrati, perché devono essere fermati, devono essere spinti ad andare avanti nelle cose. Ho capito, bloccati nell'attacco politico a Berlusconi, come vuole che glielo dica? Ma lo chiami come vuole lei, ma è così oppure no? Secondo me è così, ma insomma, visto che ho portato io i protagonisti in studio, stavolta faccio io una domanda. Secondo voi esiste un pregiudizio, esiste un'anomalia nel fatto che un presidente del Consiglio abbia ricevuto una... Guardi, con me sfonda una porta aperta, amici, che secondo me sì, secondo Parenzo no, secondo il suo amico Parenzo no. Chi è mio amico non ha detto che lo debba pensare come me, quindi meno tutto che amico. No, ma sto scherzando. Ma io dico, non è detto, alcuni processi magari poi sono finiti in nulla, ma no, voglio dire, questo tutti, di Parenzo, questo... tutti. Cioè, alcuni sono stati bloccati, altri sono va bene, chiudiamo nulla. Questa discussione, abbiamo capito. Una cosa le voglio chiedere. Partiamo, perché me le ricordo tutti. Sì. Partiamo dalla tangente di 60 milioni a uno della Guardia di Finanza. Primo processo, quello per cui il Corriere della Sera titolò indagato. D'accordo, però Michiche, io le voglio chiedere, tra questi. Guardate, perché lei non dice esplicitamente una cosa? Che questo provvedimento. Quando noi per scherzo dicevamo ormai ci manca solo la Berlusconia, che se l'hanno messa dentro pure, non manca più niente. Senta una cosa, ma è vero o no che questo provvedimento viene fatto per fermare il processo Mills? Sì o no? Non mi fregate. Non la freghiamo. Non mi fregate. Questo processo. Ma io lo sapevo che con lei era difficile. Ma lei si candiderà alla presidenza della regione Sicilia o no? Parlatemi di come sta andando a Palermo, per ora mi fregate. Ci sono le possibilità di fregarmi, basta dire le cose giuste. Sul Palermo è strato. Palermo di Zamparini? Il Palermo di Zamparini è un altro personaggio mitico. È uno che senza Zamparini Palermo avrebbe ancora la squadra in Serie C. È un personaggio straordinario. Ok, cambia troppi allenatori, amici, che troppi allenatori cambia. Meglio tanti allenatori per restare in Serie A tra le prime sei che pochi allenatori. Sì, vabbè, c'è anche una via di mezzo. C'è anche una via di mezzo, dico. Non la conosco. Senta una cosa, ma Alfano è pronto a fare il leader del PDL? Non lo so, glielo devo chiedere stasera. No, ma secondo lei è pronto a fare il leader del PDL o no? capisco, glielo devo chiedere, non lo so, perché vado su, mi dico una cosa. Dopo, dopo Berlusconi chi c'è? Dopo Berlusconi non c'è nessuno. Come non c'è nessuno? È tutto finito. Io credo che dopo Berlusconi c'è Forza del Sud. Vabbè, quello, quello d'accordo, Forza del Sud sarà sicuramente protagonista nei prossimi anni. Non sto scherzando, nel senso che dopo Berlusconi si apre finalmente la, la, come dire, non finalmente, che sta prendo già adesso con Berlusconi, ma poi ah ecco, finalmente, finalmente dopo Berlusconi non ho finito, si aprirà quella fase politica di territorio, cioè ci sarà una Lega Nord, ci sarà una Lega Sud, si cercherà sempre di individuare un Presidente del Consiglio che sia il miglior mediatore tra i due. Ecco, ma lei chi vede, per esempio, come vede la coalizione alle prossime elezioni? Dunque, c'è quello che sarà del PDL, il PDL o quello che resterà del PDL? No, no, io vedo il centrodestra fatto la Lega Nord, il PDL e Lega Sud. Vabbè, anche Storace forse, anche il signor Storace. Come? Anche il signor Storace forse, no? Ah, immagino, ma il, lo schema è il massimo, è quello, poi ci possono essere tanti altri. Tanti altri. Finché anche a sinistra non si capirà che questo è lo schema della politica, oggi quando si iniziano a parlare di riformismo, di non riformismo, cosa non ne frega più niente a nessuno. Ah no, beh certo, io so che la gente vuole gli ospedali che funzionano, i treni che arrivano, e le vogliono avere 1.000 euro in più in tasca. Ma Lombardo che fine fa? Che ne so, io lo chiedo stasera se lo vedo. Beh, tutti vede stasera. Senta, Lombardo ha detto che lei era eccitato l'altro giorno. Perché è un figlio di puttana, ma non è importante, va bene così. Come un figlio di puttana? Come un figlio di puttana? Detto positivamente, uno che si difende, che deve fare? È disperato, che non ha fallito tutto, e quindi l'unica è tentare di offendere, cercando di farmi arrabbiare, non mi arrabbio più. Beh, insomma, l'ha detto con figlio di puttana, insomma, non è che proprio. Cioè, non è diciamo, proprio... In siciliano si dice che puttana non dice bravo, dice guarda che quello è un figlio di puttana, cioè per dire che è uno bravo. Beh, sì, ah, ho capito. Ho capito. È come la spranga. Quindi lei mi dice che se io do del. Com'è la prima spranga? Com'è quello che ha detto lei? La spranga? No, la sfanga, la sfanga. La spanga. Sì, ma non è così, non è così, non è così. Comunque, scusi, perché ha detto che lei si era eccitato dopo la notizia dell'avviso di garanzia? Io sarà eccitato lui, io dicevo garanzia, sarà avuto ricevuto lui. Lui alla notizia dell'avviso di garanzia ricevuto da Lombardo. Lombardo ha detto era talmente eccitato dalla cosa che. No, no, non ha detto neanche così, ha detto una minchiata qua. No, ma è così, ha detto, io ho l'agenzia qua. Ha detto che quello che io avrei detto, che peraltro è stato molto cortese, niente di particolarmente offensivo, sarebbe stato causato dal fatto che io avrei userei ancora secondo Le sostanze eccetera eccetera, le sostanze, sì sì sì, purtroppo vanno, purtroppo per loro vanno, vanno a chi le dice, a me non mi fanno. Allora lei aveva detto la Sicilia ha bisogno di un governo. La Sicilia ha bisogno di un governatore al di sopra di ogni sospetto. La risposta di Lombardo è stata: Micica ha detto questa piccola mascalzonata assieme a tante altre sciocchezze su questo finto partito. Avete letto il pezzo del giornalista, onestamente è riportato in maniera perfetta. Sì. Il giornalista mi ha chiesto: ma non è giunto il momento di avere un presidente della regione al di sopra di ogni sospetto? Io ho detto: quello dovrebbe esserci sempre. Punto. Vabbè, comunque eccitazione alla quale speravo si fosse sottratto, e invece niente. Vabbè, vabbè, è una roba pesante pure quella di Lombardo. E che vuole fare? Che devo fare? E se è meglio per lui che le dice sminchiate, che posso fare? Borsa. No, bene, dobbiamo chiudere con Gianfranco. Sì, Micica, che è successo? Ma scusate, mi sembra normale che avete fatto le palle perché Berlusconi faceva troppa pubblicità. Io 20 minuti che poi per salutarmi mi avete fatto tre 20 minuti di pubblicità. Ma che 20 minuti? 3 minuti? Che pensavo, sai che pensavo? È tornato Scilipoti. Ho detto, mentre c'era. Dov'è Scilipoti? Allora ho detto misuriamoci, perché ho detto che tu sei 1,40 e banchi sono 1,20, allora facciamo misura. Misuratevi. Ma dove è andato? Dove è andato? Voi siete simpatici, questi sono fatti nostri che non veniamo a dire certamente a voi. Scusi Micica, ma perché dice che Lombardo è un disperato? Come? Perché ha detto che Lombardo è disperato? Hai iniziato dicendo che dobbiamo salutare Micica, saluta e basta, ricominciamo. Ma perché è disperato, lei dice? Mi piace approfondire questo argomento, perché è disperato? Però lei su... C'è una regione totalmente allo sfascio, che onestamente non era così, non era messa bene, ma certo non in questa condizione. Il partito gli ha fallito ovunque, che cazzo devo fare? In famiglia che devo fare tutto. Che ne so. Ma lei si candiderà alla presidenza della regione? E che ne so io, se mi dovessi votare io da solo già sarei presidente della regione da 20 anni, ma siccome non mi voto io mi devo prima candidare e poi mi devono votare già, poi vedremo. Ma lei si augura che venga assolto Lombardo? Assolutamente sì, non esiste possibilità al mondo che mi ci che possa essere felice per qualcuno che viene condannato. E perché allora ha interpretato così male quella sua frase dell'altro giorno? Te l'ho detto. Con quelle insinuazioni sullo stato di eccitazione. Che posso fare? Perché è disperato, che devo fare? È disperato. Però devo dire una cosa, Parenzo, che Michiche tempo fa aveva previsto quello che sarebbe successo e si era posto una domanda: cosa dirà il Partito Democratico quando Lombardo verrà indagato, eccetera, eccetera, per mafia? Ed effettivamente oggi la posizione del Partito Democratico è un po' ambigua, è un po' aveva ragione, è vero, la contraddizione oggi è plastica, è evidente, il garantismo andrà a farsi fottere. Teniamo ambigua, diciamo di paracolaggine, perché invece che stanno al governo non lo vogliono mollare. Tutto quello su cui basano la loro etica finta, tutto quello che dicono nei confronti degli altri, loro ne sono i veri padroni etici, di tutta la negatività che loro sparano agli altri. La verità è che ormai li conosco bene. Io prima ero a sinistra, e io prima ero comunista. Beh, sì, molto, molto tempo fa, no? Molto tempo fa, certo. Ma se oggi comunista, lotta continua era, no? Sì, certo. Diciamo peggio, ma se oggi io li odio così tanti è perché li ho conosciuti e so come sono fatti. E sono, siccome purtroppo, mentre dalle nostre parti, chiamiamole così, c'è stata un'evoluzione della specie, dalle loro parti non c'è stata questa evoluzione. Sono esattamente chi dichiarava una volta. Ecco, ma chi è ancora? Chi è ancora come una volta, per esempio? Passare poco fa Bersani, ma è una cosa malissima. No, a Bersani no, o no, oppure no, lui. Oddio mio, io dico, l'avete visto voi il manifesto che c'è per Roma per adesso di Bersani che dovrebbe dare fiducia alla gente per essere votata, in bianco e nero, chi rimane giù con tutte e due le braccia, cosa, che adesso è un poco piegata, io dico, ma che sarà bisogno di aiuto, vediamo se c'è un... Vediamo ma che c'è? Vabbè, quello che c'è, quella è brutta la campagna, che c'entra con i comunisti? Ma perché stanno la testa, ci hanno la testa così, loro sono convinti di essere stati mandati sulla terra per conto di Dio per sistemare le faccende etiche. Loro sono i più grossi traditori dell'etica che esiste sulla faccia della terra, che esiste sulla faccia della terra. Loro che lì conoscono per uno, facciamo un elenco? Faccio un elenco di peggiori comunisti che ancora sono in circolazione. Tempo, no, peggiori comunisti, me ne fotto comunisti. E che ha detto lei? Comunisti, Poi, te... Piddini, come si chiama? Piddini, sì, Piddini, Piddini, PID. Anche il PID c'è adesso, amici, che è il PID. Piddini, PD, come si dice? PD. No, PID è quello del suo amico Romano. Piddini. Piddini è Romano. Gli altri sono Piddini. Quelli altri sono Piddini, sì, è vero. Vabbè, comunque lo sa che lei quando parla in... Tra poco ha ragione Lombardo, ci ritroveranno tutte e due. Lo sa che quando lei parla in dialetto mi piace molto, eh? Grazie. Mi piace. No, mi piace non esagerare che c'è un casino, però sessualmente qua. Arrivederci. No, come sessualmente? No, mi piace, nel senso mi piace il dialetto. No. Che allora. Ma lei non era lotta continua, che era prima? Non mi ricordo più. No, non era lotta continua prima una volta, che era? Potere operaio. Potere operaio, che tempi, eh? Che tempi? Bei tempi, amici. Ci canti, amici, che la canzoncina che cantavate da giovani. Ba-bam, potere operaio, se ricordano. Com'era la canzone all'epoca? Non la conoscevo, io mi ricordo Bella Ciao, oppure quando andavamo in... Canti Bella Ciao, Michi che canta Bella Ciao, Radio 24, silenzio, bellissimo. Silenzio, quando facciamo i cortei, che c'era, che ne so, Fini, mettiamone uno per caso, e gli diciamo, Fini, fascista, sei primo della lista, Fini, Carogna, ritorna nella fogna, queste sono le cose che facevamo ai tempi, ma dico Fini per dire un nome. Beh, sì, no, per caso, un nome a caso. Per caso. Ragazzi, facevamo i cortei, li facciamo tutti con questi slogan inutili. Fini, Carogna, inutili, che sono invece che sono rimasti nella testa di questi qua che sono da quell'altra parte del Parlamento. Va bene, grazie amici. Grazie, a presto. 20:40. Ci saluti Scilipoti, è sempre lì? Sì, è sempre qui. Dov'è? Scili? No, c'è andato da fare quello là. Altrimenti mi ha detto che d'ora in poi lo chiama Parents. Parents, Scili e Parents. Scili e Parents. Non si faccia fottere sta roba dell'olismo, che è una cagata pazzesca. Come non mi faccio fottere? Io sono professore di olismatica. No, vabbè, va. No, cioè, no. È tutto finito, eh? È tutto finito, grazie, grazie. Arrivederci. Ha detto, tu lo sai che cos'è l'olismo? Ha detto, stai tranquillo, io sono professore di olismatica. No, sì, non ci credo nemmeno se lo vedo. Ma vuole i soldi per questo famoso dipartimento? Ecco perché è da lei, perché vuole i soldi per il dipartimento sulle medicine naturali. Ma perché senza facoltà di olismatica, secondo lei? Ma che ne so, boh, forse sì, ma scusi, ma vuole i soldi Scilipoti per questo dipartimento o no? Se è un dipartimento serio, farò in modo di fargli dare. Guarda che li tolgo dal sud, Guarda che Tremonti se n'è andato. No, ho capito, ma li tolgono al sud per darli a quelli che organizzano all'olismo, i convegni all'olismo, le scie chimiche. È venuto uno, che è venuto un altro deputato di Forza del Sud che si chiama, che mi dice: ah, peccato, se c'era Baldelli gli facciamo Tremonti finto, perché non sa che Tremonti è stato vero, è passato di qua, l'abbiamo fermato e si è mettato in traduzione. Bene ragazzi, arrivederci, grazie. Ora scendo, vado all'altra parte, però venga spesso qui alla Zanzara, fare, amici, che ogni volta per bloccarla ci mettiamo una vita. Perché voi giornalisti dovete dire minchiate per principio? Quando mi avete cercato mai? Ma avete cercato sempre, la prima volta sono qua, ma che dite? Ma c'è voluto l'intervento di un comune amico con le bandierine per portarla qua. Comunque va bene, dai, va bene. I miei nemici non mi convince, se chiamano i miei nemici, però mai, se chiamo un amico. Va bene, grazie Michiche, grazie. 20:44:30, lo sai che Scilipoti Parenzo sta organizzando un convegno alla Camera venerdì in cui tra gli interventi ci sarà l'intervento del dottor Raffaele Cavalieri, psicologo e psicoterapeuta, per parlare delle scie chimiche e democrazie dirette. Posso dirla tutta? Un altro si chiama Lia Veneziani, un altro interlocutore, perché è da persone serissime, saranno insegnante yoga, esperti in alimentazione, salute naturale. Tutto questo alla Camera? Yoga. Tutto questo alla Camera. Alla sala, no, scusa, non è alla Camera, alla sala delle colonne, Palazzo Marino. Che giorno è? Venerdì 15 aprile alle 9:30, sala delle colonne, Palazzo Marino. Siccome parto per Perugia più tardi, vado a fargli una pizzicatina io la mattina. Yoga terapeutico per prevenire e curare i mali della nostra epoca, uno degli interventi. Il precedente, di Giampaolo Gallo, che non so chi sia, antico metodo di riequilibrio energetico esseno e lettura dell'aura, con la maiuscola. Lettura dell'aura. Sono ignorante come una capra, lo so, però. Traffico poi volata con gli ascoltatori. Eccoci, Fabio dalla provincia di Lecco, poi Don Roberto da Milano. Prima però un prete, un parroco, prima di Fabio. Fabio, vengo subito da lei. Don Roberto, prego. Buonasera, signor Cruciani. Buonasera. Sono Don Roberto. Dica, da Io dove? Sono parroco a Corsico Bucinasco, la mia parrocchia è su tutti e due i comuni. Sì. E anch'io sono molto arrabbiato per la situazione politica. Oltretutto mi trovo con il sindaco della mia città anche in carcere. Sì, Bucinasco, sì. Bucinasco, sì, è una sofferenza sociale del territorio molto grande. Sì. Però volevo semplicemente chiedere scusa a tutti gli italiani per il sacerdote di prima, in quanto veramente, come tanti hanno anche detto, a noi non è dato di parlare in quel modo, di pensare in quel modo. Bravo. Quindi volevo semplicemente chiedere scusa per l'atteggiamento di Don Giorgio, che assolutamente non condivido. Lei lo conosce? Non lo conosco direttamente, so che è un sacerdote che ha già fatto parlare per tanti altri suoi interventi fuori luogo e assolutamente sproporzionati, soprattutto per le modalità, ecco, che non condivido e che chiaramente gettano anche un'immagine bruttissima sulla Chiesa. Noi sacerdoti dobbiamo stare attenti, perché possiamo certamente esprimere il nostro parere, siamo in democrazia e prima che essere sacerdoti siamo uomini, siamo cittadini. Però quando usiamo certe modalità, chiaramente poi gettiamo un'immagine brutta sulla Chiesa. Mm. E questo non c'è dato assolutamente. Bene, Don Roberto, grazie. La prossima volta si ricordi anche di spegnere la radio. Non volevo interromperla come faccio spesso con gli ascoltatori, perché non andava bene, il suo discorso filava liscio. E la ringrazio di queste parole. Fabio dalla provincia di Lecco, buonasera. Ecco, buonasera. Dica. Luciani. e anche a Parenzo. Ecco, pensavo che il Don Roberto fosse il parroco di Rovagnate, invece non lo è. No. Parlo io per un parrocchiano di questa parrocchia di Don Giorgio. Ah, lei è un parrocchiano, cioè uno che sì, bravo, frequenta la parrocchia di Don Giorgio. Sì, ecco, allora sì, lo frequento quando non riesco più a farne a meno, poi esco dalla chiesa, ecco, ovviamente. Questo fa paura, è un prete, fa paura. Cioè, non ho capito, scusi, lei quando comincia a parlare di Don Giorgio, quando fa le sue prediche, esce? No, quando non ne posso più, non ci vado più, però voglio dire... Spaventa. Ma quanta gente ci va ancora? Ma è tutto pieno, la chiesa ha un sacco di fans, solo che è stato spostato dall'orario clou della domenica alle 11 alla domenica alle 8 la mattina, però la chiesa è sempre piena perché i suoi fans sono... Ma da chi è stato spostato dalle 11 alle 8? Ah, non lo so, forse dalla curia, forse dagli alti prelati. Però è sempre pieno, dice lei, no? È sempre pieno. E queste cose le dice anche... Sì, le dice sempre. Magari non che bisogna uccidere Berlusconi, però. Ah, no, beh, questa è nuova, ovviamente, però sarà una ogni domenica o quasi, sono sempre novità. Però comunque il suo blog è sempre molto aggiornato su queste cose. Vabbè, ma volevo dire, questo uomo, questo Don, è evidentemente psicopatico. Se voi veniste a vedere una messa, non capireste subito. I giovani a cui lui si riferisce quali sono? Io non li vedo. I bambini sono spaventati e si... tranne quelli che non si sa per quale motivo. Ma chi ci va allora? Chi ci va? Che tipo di persone ci va? Non sono questi giovani che lo seguono, lui fa per i giovani. Ma quali giovani? Ma quella psicopatia, sono d'accordo con Parenzo, ci vuole un trattamento sanitario. Punto e basta. Ma psicopatico perché? Lei dice psicopatico, cioè malato di mente proprio, pazzo. Ma un malato di Berlusconi, un malato di anti-berlusconismo. Cioè io non sono un fan di Berlusconi, ma cioè è impossibile non essere d'accordo col parroco di prima. Cioè, scusateci... Per questo che dice, insomma, è tutto lì. Bene, grazie, grazie, grazie. Fabio, Andrea dalla provincia di Bologna. Andrea? Non mi sente più. Carlo, provincia di Monza. Pronto? Buonasera, dica. Buonasera. Allora, io volevo difendere De Mattei, ma è cosa, storia vecchia di ieri. Sì. Perché non ne posso più di questa inquisizione laica che addirittura chiede le dimissioni perché ha espresso un parere che per un fedele direi che magari in un modo non esattamente così, ma è naturale, cioè se esiste Dio dobbiamo anche pensare che tutto ciò che avviene nel mondo per qualche disegno che noi non conosciamo, a Dio è noto e conosciuto. Se invece non si crede in Dio è tutto dovuto al caso, quindi non si... Cioè anche secondo lei l'impero romano e altre organizzazioni sociali sono cadute perché c'erano troppi omosessuali? Ma io faccio riferimento alla vicenda legata al terremoto in Giappone, perché ho sentito sugli omosessuali invece? Vicenda. Sugli omosessuali? Cioè, sugli omosessuali non ho sentito che cosa abbia detto. Quindi... Cioè che l'impero romano e non solo l'impero romano sono caduti è caduto perché c'erano troppi omosessuali. Ma io questo non saprei dirlo perché questo è un giudizio storico e non... No, un'altra cosa invece sui terremoti ha detto anche che sono un castigo divino, lei pensa che sia così? Io penso che qualunque evento catastrofico che Dio evidentemente permette, per un credente, perché un credente dice Dio c'è, capito, ma non è che faccia Dio a permettere questo tipo di evento. Scusi Carlo, io conosco un sacco di credenti e di fronte al terremoto in Giappone non è che la prima riflessione è stata quella che sia un castigo divino nei confronti di non si sa quale male che succede, che c'è sulla terra. Cioè io ne conosco un sacco di credenti, non è che tutti la pensano come De Matteo o come lei, eh? Ma guardi, io non è che la penso, cioè non penso alla questione del castigo divino, anche perché è la Bibbia che parla del castigo divino e quindi già legge i cataclismi del mondo in un certo modo, ma lo fa come immagine biblica. Io posso pensare che Mattei abbia voluto usare questo tipo di immagine rispetto ad un evento che è inspiegabile per l'uomo, perché Dio permette una cosa così terribile, 20.000 morti. Secondo lei perché? Non lo so, lo potremmo sapere castigo? Soltanto come castigo? No, come il male sicuramente in questo c'entra, perché il male esiste, per un cattolico il male esiste, altrimenti e dunque i terremoti sono un castigo per il male che c'è nel mondo. Ma io non credo che il terremoto sia un castigo per il male che c'è nel mondo. Quello però ha detto, se Dio, quello allora, ha detto, se Dio consente sì. che avvengano questi fatti, questi eventi, sì. evidentemente c'è un disegno che noi non conosciamo sì. e che potremo conoscere soltanto quando avrà termine questa vita terrena. Il problema non è però questo. Ma il non è possibile che... spiegare queste cose solo come degli eventi naturali che... Per carità, io non voglio dire che la non ci possa spiega, essere. La scienza cerca di spiegare tutti gli eventi naturali possibili e immaginabili. Sì. Il problema è che nel rapporto tra fede e scienza, per chi ha fede, ripeto, sì. no, certo. questo è problematico, nel senso che il credente si chiede perché certi fatti brutti. Ho capito. Avvengano o permettono. Carlo, comunque lei non, è, non mi, lei non mi pare che sia d'accordo con quello che diceva De Mattei. Saverio da Caserta per chiudere, 30 secondi, Saverio. Saverio? Pronto? Dica, veloce. Allora io volevo fare i complimenti a Don Giorgio. È vero che ha esagerato un po' nel parlare, però ha detto tutta la verità, tutta la verità. Sì, tutta la verità, Saverio, dove si trova? Dove si trova lei? Io adesso sono a Roma Nord. Roma Nord, ci dia Parenzo, dai un'indicazione esatta. Mi dica la zona di dov'è, gentilmente, che abbiamo più di una macchina in zona. Dov'è? No, è inutile che mandi l'autoambulanza perché ci posso andare pure da solo in ospedale, non ti preoccupare. Ecco, vada, è vada. Partita, va. Amico mio, è già partita. È già partita, vada, vada. Saverio, se lei dice che Don Giorgio ha ragione, siamo messi bene. Sai chi c'è qui vicino a me? Chi c'è? È appena il direttore di Repubblica, Ezio Mauro, stavo per passartelo. Lo so, ma me ne passavo. Perché sono al teatro Ambra Iovinelli. Ho capito, ma adesso, prima, adesso me lo dici. Stavo chiedendoti la linea, tu. Ho capito. Traffico, ma dobbiamo chiudere. A domani, 18:30. Saluti, direttore. Ciao. Saluti.